24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 10 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 30 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Ciao, ciao Simone, buongiorno a tutti voi. Per la consueta rubrica Tutto il mondo e paese, questa mattina, devo dire la verità, mi auguro che non sia così. Mi auguro che non tutto il mondo sia paese, soprattutto guardando la prima pagina del Daily Telegraph. Perché? Perché l'apertura del quotidiano britannico è dedicata al fatto che una importante città inglese, Leicester, nel centro dell'Inghilterra, non lontano da Nottingham, è tornata totalmente in lockdown. C'è l'immagine di un uomo tutto in tuta bianca con le visiere, come eravamo abituati a vederli 2 o 3 mesi fa, che esce da un ospedale di Leicester e insomma la città inglese è stata di nuovo tutta chiusa, di nuovo chiusi i negozi, esattamente tornata indietro di 3 mesi. E il segnale che le cose in Gran Bretagna non stiano andando bene arriva anche dall'altro articolo che sempre il Daily Telegraph mette in prima pagina: la Grecia ha di nuovo chiuso i voli dalla Gran Bretagna, non vuole i turisti britannici e non vuole i turisti svedesi. È un segno del fatto che, insomma, anche se è estate, il coronavirus non sta facendo marcia indietro, almeno appunto a vedere cosa succede all'estero in Gran Bretagna. Sì. E invece, sempre per la serie Non tutto il mondo è paese, Le Figaro in prima pagina dà conto della condanna dell'ex potente uomo del partito conservatore francese Fillon, che è stato condannato insieme a sua moglie Penelope per aver, è stata questa la sentenza del giudice, truffato i cittadini francesi di 1 milione di euro, perché sua moglie fingeva di avere lavori. Qua Maria un po' di paese c'è qua, tutto il mondo è paese. perché Fillon difficilmente tornerà in politica, così come non sono tornati tutti quelli che sono stati eliminati per questioni giudiziarie, da Strauss-Kahn allo stesso in qualche modo Sarkozy, mentre sì, da noi a volte ritornano. Buongiorno Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, come sta? Su un'autostrada anche lei bloccato in mezzo al traffico? No, spero di no. No, questa mattina no, per la verità. Ieri però ho dato il mio contributo. Anche lei con la sua auto bloccato in coda. Oggi no, ma insomma tanti sì, perché anche oggi ci sono code su tutto il nodo genovese. Maria, prego. Ma come se lo spiega lei? Buongiorno Toti, come se lo spiega che i lavori che, come giustamente faceva notare il sindaco di Rapallo poco fa al GR di Radio 24, i lavori che non sono stati fatti per anni vengano fatti senza una riflessione ovvia? Con la fine del lockdown in tanti si sarebbero messi sulle strade da Torino, dalla Lombardia per venire in Liguria. Non eravate stati informati? Guardi, in tanti si sono messi sulle strade, per la verità, e il paese sta ripartendo, la regione sta ripartendo, per fortuna. Ma qualcuno evidentemente non si vuole, dopo anni di ritardi, diciamo una 30 d'anni di ritardi, dopo 2 anni dal crollo del Morandi, quindi 2 anni di colpevolissimo ritardo e dopo il lockdown lasciato passare in vano, o meglio usato per fare evidentemente controlli sbagliati, secondo una modalità sbagliata, da maggio ha deciso il Ministero di cambiare tipologia di controlli e tempistica dei controlli. Io credo, perché nessuno, come sempre accade in questo paese, ha la volontà di prendersi la responsabilità di decidere che cosa è più importante, che cosa meno, su che cosa occorre lavorare immediatamente, su che cosa si può spalmare. Allora si fa come quel medico che opera il paziente e poi dichiara felice, l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto. Noi facciamo la stessa cosa, abbiamo un piano che cerca di mettere, ed è un dovere farlo, in modo funzionale la rete in sicurezza, ma non tiene conto di chi la percorre in questo momento, non tiene conto delle esigenze economiche, anche delle esigenze di sicurezza, guardi, perché non si può dire mettiamo tutti in sicurezza subito perché ti può cadere un calcinaccio in testa, ma al contempo devi fare 20 cambi di carreggiata, se fai un incidente l'ambulanza non arriverà a salvarti, o per muoverti in questo territorio ci vogliono ore e ore e ore anche per una volante della polizia, perché questa è evidentemente una follia impossibile. Ma non potevate mettervi d'accordo e fare i lavori durante i mesi di lockdown? No, guardi, io l'ho chiesto con 3 lettere mandate via PECA, Ministero e Autostrade, nessuno non solo lo ha fatto, per la verità non ci ha neanche risposto, tant'è vero che ieri ho firmato un'ordinanza che ha un valore cogente nella nostra regione, chiedendo al Ministero e all'Autostrade di presentarmi un piano diverso entro 3 giorni da ieri, perché non so più come fare a farmi rispondere. Non è che potevamo mettere ha mandato la PEC per essere sicuro che fosse ricevuta al Ministero, per avere le prove. Ne ho mandate molte, sono certo di essere che sono state ricevute, non sono certo che sono state lette. Vorrei chiarire che non potevamo metterci d'accordo su niente, perché noi questo piano neppure lo conosciamo, perché come vi è noto noi non abbiamo nessuna competenza sulle concessioni statali che attraversano la nostra regione, né i binari del treno né la rete ferroviaria, e quindi non solo non ci ascoltano, ma non conosciamo neanche questo piano nel dettaglio. Lo veniamo a sapere via via per gentile cortesia di chi ce lo comunica, ma non abbiamo modo né di conoscerlo né di trattarlo, né tantomeno di, come avevamo chiesto con il sindaco Bucci, di avere un nostro advisor indipendente che ci dicesse la tempistica e la gravità degli interventi da fare. Cioè la regione e gli enti locali dalle concessioni di Stato sono totalmente escluse, che è una cosa che con l'autonomia dovremo necessariamente rivedere, perché non voglio mai più che qualcuno ripassi questa situazione. Senta Toti, posto che, giusto per dare un elemento di cronaca agli ascoltatori e per dare la misura di quello che sta succedendo sulle autostrade liguri in queste ore, ho sott'occhio un'applicazione di navigazione da Voltri a Nervi, 36 chilometri, 1 ora e 10 minuti in questo momento, ci si mette un'ora. Sì, perché durante il fine settimana, poi nemmeno ne parliamo, cioè il venerdì pomeriggio, la domenica pomeriggio e via dicendo. Ma tenga presente che la logistica, la Liguria è una regione che vive di logistica, di spostamento di cose e di persone. I porti della Liguria stanno riprendendo le loro attività a pieno ritmo adesso, quindi migliaia di camion raggiungono ogni mattina il porto di Genova, il porto di Genova, sì. Voltri, i porti di Savona, di Spezia, per fortuna i turisti, e quindi è una regione che, bloccata in questo modo, diciamo, mette in difficoltà anche l'economia di Lombardia, di Piemonte, di parte d'Emilia, tutti coloro che spediscono merci e cose dai nostri porti. Senta Toti, ieri c'è stato un incontro per definire un nuovo piano, per provare a definire un nuovo piano di interventi che consenta alle persone di circolare un po' più tranquillamente. Che cosa ne è emerso? Ne è emerso qualcosa di utile? Ma che io sappia, nulla di significativo, visto che stamani siamo ancora esattamente la situazione di prima. Detto che all'incontro non siamo stati invitati, non abbiamo partecipato, non abbiamo detto la nostra, non ci è stato comunicato, ed è la ragione per cui ieri ho incontrato Camera di Commercio, Confindustria, tutti i comuni della Liguria e ho firmato un'ordinanza che, ripeto, obbliga il Ministero e l'Autostrade, vedremo se verrà impugnata o se verrà ottemperata, a presentare un nuovo piano, e ha anche detto che insieme a tutte queste categorie ci prepariamo a chiedere un maxi risarcimento del danno della nostra regione, perché il danno è quasi incalcolabile. Stiamo parlando di un danno al prodotto interno lordo, all'immagine, alla sicurezza dei nostri cittadini. Lo ripeto, non stiamo facendo le bizze, stiamo dicendo che se un'ambulanza deve percorrere la strada che c'è tra i nostri due ospedali, in una regione dove la rete autostradale è parte integrante della rete viaria usata, rischia di arrivare con pericolosissimo ritardo, perché da noi non c'è neanche una corsia d'emergenza dove passare, quindi non c'è una via alternativa per i mezzi di soccorso. Senta, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in una intervista a Roberto Sculli della Stampa, ammette che stanno creando disagi, ma dice, ecco, quello che sta succedendo deve essere un monito per tutti, perché evidenzia la necessità di intervenire sul nostro sistema infrastrutturale. Purtroppo non si può fare senza impattare sugli utenti. Quindi il nostro sistema infrastrutturale sta andando a pezzi, lo sappiamo. Ora c'è consapevolezza e si interviene massicciamente, ma dice l'amministratore delegato di Autostrade, è ovvio che non può questo non può accadere senza avere un impatto sulla vita degli automobilisti. La consapevolezza è tutto da vedere, dal momento che vedo ancora un assurdo dibattito sulle opere che servono a questo paese. Genova, come noto, attende una tangenziale, una gronda autostradale da circa un decennio, il progetto è ancora pronto e per le liti tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle il ministro non ha ancora firmato quel progetto, quindi tutta questa consapevolezza la diamo per scontata, ma non è affatto così. L'amministratore delegato delle autostrade sta applicando un piano, le ripeto, dove nessuno si è assunto una responsabilità e di colpo si pretende di fare in 3 mesi, in 2 mesi, tutti i lavori che non sono stati fatti in 30 anni sulla base di regole vecchie del 1967, una circolare che pare costringa a smontare pezzi interi di galleria. Ma nel 67 io non ero nato, quindi una circolare di cui ci siamo accorti l'esistenza nel maggio del 2020, che esisteva dal 67, questo le dà l'idea di che cos'è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in questo paese, ma questo non è un piano di salvataggio delle infrastrutture della Liguria. Questo è un piano per salvare, come si dice, la responsabilità di qualcuno in modo totalmente sguaiato e che sta cancellando di fatto ogni possibilità di ripresa della nostra regione e mettendo a rischio la vita e l'incolumità dei nostri cittadini. Questo è quello che sta accadendo oggi, altrimenti si fa un piano serio in cui si dice che nella galleria A si deve intervenire subito perché c'è un problema serio, nella galleria B si può intervenire tra 10 giorni, nella galleria C si può intervenire ad ottobre, quando la stagione turistica è finita e quando i nostri porti sono in un momento di tradizionale stanca. Questo è un piano serio, concordato con i sindaci, con gli enti locali, con le associazioni di impresa, con i sindacati. Questo fa un ministero, non ingiunge ad Autostrade di fare in un mese e mezzo, alla ripresa dal lockdown, all'inizio della stagione turistica, la ripresa della partenza dei traghetti e dei porti, di chiudere immediatamente a sorpresa nella notte tutte le gallerie, perché nessuno si vuole assumere la responsabilità di dire cosa può restare aperto e cosa può restare chiuso. È una cosa francamente inconcepibile e intollerabile. Una circolare del 67, quasi non ci credo. Ascolti Toti, c'è un'altra questione che ha a che fare con i trasporti e che coinvolge anche la vostra regione, ne abbiamo dato conto questa mattina in rassegna stampa, ed è questa situazione incredibile che riguarda i treni, situazione incredibile per la quale, per esempio, si sale in Piemonte a posti alternati, si arriva in Liguria e in Liguria si possono riempire tutti i posti all'interno dei vagoni e viceversa, cioè tu riempi un treno a Genova e poi quando arriva al confine metà delle persone devono essere fatte scendere, prendere un pullman o cose di questo genere. Guardi, non è esattamente così, nel senso che le regioni regolano il servizio di traffico ferroviario regionale, quindi ci siamo dati delle regole che riguardano il nostro servizio su ferro, quello che dipende dal servizio pubblico regionale, ovvero nel caso della Liguria i treni che corrono sostanzialmente nella linea orizzontale al mare, cioè 20 miglia Sarzana. Sui treni intercity evidentemente le regole le dà il Ministero ancora una volta, ammesso che le dia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché come lei sa in questo paese le regioni governano sostanzialmente il servizio treni regionale, mentre tutti i collegamenti interregionali e nazionali sono appannaggio del servizio nazionale del MIT. Poi alcune regioni, tra cui l'Emilia ad esempio di Stefano Bonaccini, il Veneto di Zaia, la mia regione, hanno deciso che si poteva, data la condizione epidemiologica, io ne sono totalmente convinto, tornare sostanzialmente almeno a riempire i posti a sedere con mascherina dei treni regionali e lasciare, diciamo, uno spazio ai posti pieni. Noi consentiamo l'occupazione del 60% dei convogli, gli altri ancora non lo hanno fatto. Ci si può coordinare meglio, questo evidentemente sì, ma non è questa cosa surreale che viene descritta sui giornali. Dopodiché, se il servizio pubblico nazionale fosse uscito con delle linee guida dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti più stringente, più omogenee per il territorio nazionale, ne avremmo discusso in conferenza delle regioni. Per la verità le linee del trasporto pubblico non sono mai state date, sono state date delle linee di indirizzo che assomigliano all'educazione civica non cogente, per cui di fatto si dava dei suggerimenti ai cittadini, ma non c'era nessuno che facesse applicare queste regole, quindi ognuno si è un po' arrangiato come credeva. Senta, governatore Toti, citavo prima il caso della città inglese di Leicester, che è tornata in lockdown strettissimo, di nuovo negozi chiusi, la gente che deve rimanere in casa, i controlli, eccetera, perché c'è una recrudescenza del Covid. Nella sua regione com'è la situazione? Ma guardi, nella regione è totalmente sotto controllo, ma direi che lo è in questo momento poi tutta Italia. Certo, i focolai ci sono localizzati. Devo dire che il sistema sanitario nazionale in generale, nella mia regione posso testimoniarlo per via diretta, ha ormai una capacità di individuare, tracciare ed isolare i singoli cluster, i singoli focolai di contagio molto rapida e molto efficace. Io non credo che in Italia si tornerà più ad un lockdown generalizzato, ovviamente facendo i debiti scongiuri, ma si agirà come è giusto fare in via locale. Nella regione Liguria ieri c'erano meno 5 casi totali sul totale della popolazione, 7 nuovi contagi ma molti guariti. Direi una situazione perfettamente sotto controllo, come lo è ormai in tutta Italia. Questo non impedisce che vi siano dei cluster locali, la famiglia che singolarmente si infetta, l'ufficio con i colleghi di lavoro messi in quarantena, situazioni ovviamente parziali, anche se da tenere sotto controllo, e credo che questo sia il modo da intervenire, in modo localizzato, molto rigido, con magari piccolissime aree di contagio molto isolate, ma questo è il sistema per tenere sotto controllo il virus. Diciamoci anche una cosa, perché vedo grande terrorismo: negli ospedali della Liguria il numero dei malati continua a scendere, oggi siamo sotto i 50, eravamo arrivati a 1500, per darvi un'idea. Abbiamo 3 sole terapie intensive che sono reduci del passato, nessuno dei nuovi malati oggi ha bisogno di cure di terapia intensiva. Io non le so dire se il protocollo medico funziona meglio, se il virus, come qualcuno dice, ha diminuito la sua intensità. Non sono un virologo, le descrivo un fatto che monitoro 3 volte al giorno per il mio incarico. Oggi negli ospedali della Liguria il virus Covid è una patologia molto gestibile, direi quasi residuale rispetto alle altre malattie. Speriamo si mantenga così. Se non hai altre domande per Toti, Maria... Salvo che mi scuso per averla chiamata governatore, perché giustamente un ascoltatore mi dice: non esiste il governatore, è il presidente della regione Liguria. Anche ogni tanto si scivola. Basta che ci capiamo, sono convenzioni. Sicuramente non sono governatore, visto il pochissimo potere che esercitiamo anche sul nostro territorio. Le autostrade ne sono un simbolo. Se avessimo potere in questo territorio, io le autostrade le avrei già regionalizzate da tempo, visto tutti i guai che mi procurano e le mancate risposte che arrivano da Roma. Grazie Giovanni Toti, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Una pausa e poi ci ritroviamo col sottosegretario all'economia Baretta. Di che parliamo? Del MES, le nuove regole sugli appalti, insomma, della ripartenza? Mattino. E buongiorno a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno. Io non ho proprio capito che cosa c'è dietro il no al MES del Movimento 5 Stelle, mentre ho capito che il Partito Democratico dice bisogna prenderli perché sono soldi che ci aiuteranno a affrontare l'enorme spesa sanitaria e sono soldi senza condizioni. Replica il Movimento 5 Stelle: no, non è vero, e con il Movimento 5 Stelle anche la Lega e anche Fratelli d'Italia, non è vero che non ci sono condizioni, le condizioni sono nascoste. Mi aiuti a capire chi ha ragione, perché se le condizioni sono nascoste, allora ci aiuti a capire se sono accettabili. Se è, come si dice, senza condizioni, allora è un pretesto per dire no. E perché il Movimento 5 Stelle dice no? Ma la mia impressione è che il dibattito ha preso una piega in questi mesi dal quale capisco che è anche difficile tornare indietro. Le condizioni non ci sono. Il tema del MES è la ristrutturazione del debito, cioè chi accede, ci ricordiamo la Grecia, no? Chi accede al MES è costretto a ristrutturare il debito a condizioni pesanti che la famosa troica chiederebbe. Queste cose non ci sono nella parte relativa alla salute, alla sanità. Probabilmente chi sostiene il no teme che alla fine, entrando nel meccanismo, questo non sia così chiaro. Ma abbiamo detto tutti, l'ha detto il governo, l'ha detto il Parlamento, andiamo a fare un chiarimento definitivo, ma in maniera tale che non ci siano rischi interpretativi. Questo noi siamo non solo disponibili ma interessati, perché tutti abbiamo detto che un MES alle condizioni Grecia non è accettabile, ma qui è stato chiaro anche l'Europa che non ci sono queste condizioni. Io mi auguro che, siccome nelle prossime settimane si chiarirà il quadro complessivo degli aiuti europei, abbiamo già quelli relativi alla cassa integrazione, lo SURE, c'è il MES per la parte sanità senza condizioni e soprattutto sta per arrivare il chiarimento definitivo sul recovery, che a quel punto, con un quadro complessivo, molte delle perplessità cadono e si possa accedere tutti insieme a queste importantissime risorse che per l'Italia sono molto utili. Baretta, non teme che questo tentennamento sull'utilizzo del fondo salva stati possa avere un impatto proprio sulla trattativa per i restanti fondi europei, ossia che, come viene ventilato da qualche parte anche da Bruxelles, i cosiddetti paesi frugali a un certo punto dicano: vabbè, sai che c'è, se l'Italia non ha bisogno dei soldi non vediamo il problema, e quindi si chiude con un accordo al ribasso. Sì, è per questo che il Partito Democratico ha preso una posizione così netta in questi giorni, perché è evidente che, dovendo concludere un negoziato difficile sul quale abbiamo assistito per settimane a prese di posizioni contrarie, e soprattutto da domani inizia la presidenza della Germania, la quale ha modificato le sue posizioni, se noi ci presentiamo tentennanti, incerti e magari con una sorta di presunzione che non ci servono le risorse, non si vede perché dovrebbero seguirci nella concludere positivamente questo negoziato. Vanno lette anche così le dichiarazioni della signora Merkel i giorni scorsi, alle quali abbiamo ovviamente come governo replicato, perché avendo noi condotto il negoziato nei termini che abbiamo detto, avevamo tutto il diritto di replicare, ma anche perché ricordiamoci che noi siamo stati per 2 mesi il primo paese al mondo per contagi, ma oggi siamo il decimo, quindi vuol dire che le scelte che abbiamo fatto qualche risultato l'hanno dato. Però sì, sicuramente la preoccupazione che una posizione incerta non aiuti il negoziato. Per questo è bene dire che noi siamo pronti a concluderlo in tutto campo, e quando avremo tutto a disposizione siamo in grado di utilizzare le risorse per le varie voci a cui sono destinate. Sottosegretario Baretta, secondo lei il MES va accolto anche se l'Italia fosse il solo paese a farvi ricorso? Coloro i quali sono ostili a questa scelta ricordano che se l'Italia fosse la sola, se né la Francia né la Spagna, tantomeno la Grecia, ricorressero al MES, ebbene questo sarebbe un segnale di estrema fragilità per i mercati. Lei crede che sarà così? No, non credo. Mi sembra che le condizioni finanziarie di disponibilità praticamente a tasso zero del MES invoglieranno tutti i paesi ad utilizzarlo, ma in ogni caso noi abbiamo in mente un piano sanitario che va rafforzato e credo che quindi non ci dobbiamo porre questo problema. Dobbiamo dire che noi siamo interessati a utilizzare tutte le risorse che l'Europa ci dà a condizioni di vantaggio. Poi dopo la discussione su chi lo utilizza o meno la vedremo, ma presumo che sarebbe lo stesso dibattito che stiamo facendo noi, lo faranno anche in altri paesi, mi pare in molti casi anche senza queste posizioni negative che avvertiamo da noi. La vorremmo portare anche, sottosegretario, sui provvedimenti che riguardano il lavoro, e in particolare il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, che verranno estesi, da quel che abbiamo capito, fino alla fine dell'anno. Uno porta l'altro, nel senso che è chiaro che se blocchi i licenziamenti non puoi fare a meno di tenere in piedi la cassa integrazione in quel modo fino alla fine dell'anno, almeno credo, no? Lei poi è anche un ex sindacalista, quindi di queste cose ne sa molto. L'idea è un po' che si stia in questo modo pietrificando il paese, qualcuno ha scritto così, lei come risponde? Rovescerei, nel senso che la presenza di un massiccio ricorso alla cassa integrazione può consentire di chiedere il blocco dei licenziamenti, perché senza gli ammortizzatori sociali francamente sarebbe insostenibile. No, non è una questione di pietrificazione, per una ragione molto precisa, che tutto il sistema economico italiano ha bisogno di transitare il più possibile da questa situazione. In ogni caso, oggi anche la scelta di prolungare la cassa integrazione probabilmente sarà mirata, perché ci sono situazioni che hanno iniziato, sia pure con difficoltà, una ripresa economica. Ci sono altre, penso al turismo, che sono ancora in grandi difficoltà e quindi vanno accompagnate. Quindi non sarà per tutti i settori questa estensione? Presumo, anche perché oggettivamente, no, laddove si lavora non c'è necessità di ricorso alla cassa. Dico presumo perché qui bisogna fare anche una discussione con le parti sociali, bisogna sentire gli imprenditori e capire qual è il vero livello di bisogno e sentire anche i sindacati, ma in ogni caso quello che conta è che qui non si tratta di pietrificare, qui si tratta di consentire alle aziende di attraversare questa difficile situazione. In autunno potremmo avere anche problemi maggiori, perché il riverbero della crisi potrebbe condensarsi nel momento della ripresa autunnale. Sarà tra l'altro un agosto strano, perché in molte situazioni si lavorerà, per fortuna. Quindi no, non credo che siamo di fronte a questo rischio. Siamo di fronte alla necessità di consentire che il Paese attraversi questa difficoltà e si metta nelle condizioni di ripartire. Ripeto, senza ammortizzatori nessun dibattito sarebbe possibile. Con gli ammortizzatori si può ragionare anche delle situazioni aziendali per come esse evolvono. Maria. Sottosegretario, una dimensione politica in tutto questo ha la sua influenza, nel senso che vorrei capire se lei è tra quanti credono che possa esserci un inciampo, che sia un voto sulla revoca alla concessione autostrade, che sia un voto sul MES, ma insomma potrebbe esserci il cosiddetto casus belli che induca il governo Conte ad arrendersi e Conte a tornare al Quirinale per vedere se ottenere un nuovo reincarico o no. Tutto no, questo io... è chiacchiericcio politico o è un'ipotesi? Ricordiamo bene che nell'agosto scorso, quando nessuno se l'aspettava, il governo giallo-verde saltò. Non è che ci rifate lo scherzo anche quest'estate, sì? No, non è affatto un chiacchiericcio, è un tema molto serio, che però la mia personale opinione è che noi dovremmo convivere con queste tensioni che fanno parte di una dialettica in parte normale, in parte diciamo caricata dal peso anche della stessa crisi. Dovremmo convivere con queste tensioni, ma alla fine si ricomporranno, per una ragione molto precisa, che l'alternativa a una crisi di governo oggi sarebbe il voto, e non ne faccio una questione politica, ne faccio una questione di gestione del Paese. Mettere il Paese nelle condizioni di votare in questo momento sarebbe uno stop a quella di facilissimo tentativo di ripresa o di governo della crisi che abbiamo di fronte. Quindi tensioni assolutamente diciamo vere, non finte, non c'è nulla di scontato. L'incidente è sempre dietro l'angolo, ma credo che alla fine, come è successo anche in questi mesi, prevalga la convinzione che bisogna trovare un punto di equilibrio, perché nemmeno le opposizioni possono pensare che di fronte a una crisi di governo ce n'è un altro immediatamente pronto. L'esperienza dell'anno scorso è un'esperienza di per sé unica nella formazione e originale nella formazione di un governo. Quindi lei non pensa all'ipotesi di una maggioranza diversa che induca appunto il presidente Mattarella poi a varare un governo diverso ma mantenendo la prosecuzione della legislatura? Penso che sarebbe un'operazione, diciamo, di una difficoltà istituzionale e politica tale che non sia disponibile, ecco, questo penso questo. Ovviamente, come si sa, la politica è sempre in grado di riservare colpi di genialità istituzionale, però francamente oggi non vedo di fronte. I problemi sono molto gravi, sono molto seri, bisogna concentrarsi su quelli pur scontando la ovvia differenza di opinioni anche acuta, ma la difficoltà della crisi e la necessità di continuare in risposte, come si è visto in questi mesi, abbiamo, diciamo, costruito progressivamente, con tutte le discussioni, i limiti che è normale che ci siano, una risposta che non è statica, è dinamica, non è finita questa fase. Noi abbiamo ancora di fronte la necessità di avere di costruire risposte sociali ed economiche. No, non vedo alternative. Baretta, oggi qualcuno evoca la possibilità che all'interno del decreto semplificazioni entri un condono edilizio, nella fattispecie, ovviamente. Che cosa ci dice? Non ho informazioni precise, so che la politica di questo governo non è per i condoni, perché sarebbe un messaggio che soprattutto in una situazione come questa. Noi dobbiamo invece perseguire con maggiore incisività una lotta all'evasione fiscale. Guardi, in questa situazione di MES, tra le tante cose di MES, scusi, di virus, ormai il MES, siamo dentro di virus, tra le tante cose che abbiamo imparato ce ne sono due clamorosamente evidenti: quanto fa male una burocrazia sbagliata e quanto ci mancano i soldi dell'evasione, perché noi abbiamo fatto una manovra in debito da 80 miliardi e ci apprestiamo ad un nuovo scostamento in una situazione dove abbiamo più di 100 miliardi di evasione. Quindi la linea giusta. Secondo lei l'abbassamento, ecco, sottosegretario, l'abbassamento della soglia del contante, che scende a 2.000 euro e l'anno prossimo a 1.000 euro, e l'incoraggiamento a usare la moneta elettronica funzioneranno come deterrente per l'evasione? Sì, in parte sì. No, ovviamente non sarà solo quello lo strumento, ma in parte è stata la fatturazione elettronica che all'inizio era stata anche, c'erano dei dubbi, poi invece si è rivelato uno strumento utile. L'abbassamento del contante e l'abitudine incentivata a utilizzare la moneta elettronica fanno parte di questa strategia. Io sono fiducioso, perché le abitudini poi diventano un modo anche di vita quotidiana. Certo, noi dobbiamo favorirla, questa cosa non può essere imposta, e peraltro la scelta che abbiamo fatto è stata quella di incentivarla. Sì, bisogna andare in questa direzione. Ovviamente tutte le mediazioni sono possibili, adesso si passa da 3.000 a 2.000, non si scende a 1.000, lo faremo gradualmente, ma è la linea di marcia. Noi dobbiamo far capire ai cittadini che la linea di marcia dell'utilizzo della moneta elettronica ha due effetti: abbassa il rischio di evasione e, per usare una terminologia classica, è un nuovo modo di aumentare la circolazione della moneta, che è sempre stato uno degli strumenti economici molto utili. Anche se lei sa che sul primo punto c'è qualche dubbio, cioè ci sono paesi nei quali, Baretta, circola tantissimo contante e in realtà hanno bassi tassi di evasione. Mi viene in mente la Germania, tanto per fare un esempio. Quindi sono i punti di sono i punti di partenza che sono diversi. Ah, beh, sul fronte dell'evasione, sul fronte dell'evasione mi pare che non ci sia dubbio. Baretta, ci dà in chiusura una data per la riforma fiscale? Non dico una data, non le chiedono il 15 luglio sarà pronta, un'idea di massima, entro quando? Noi avevamo ipotizzato prima del lockdown di presentare in aprile una traccia di lavoro, l'avevamo definito in occasione della scorsa legge di bilancio. Ovviamente poi quello che è successo ha rallentato l'agenda, sì. Realistica secondo la legge di bilancio prossima, che non è molto lontana ormai, la legge di bilancio prossima, quella nella quale si può definire una riforma fiscale, è anche il momento, diciamo, più consono. Grazie Pierpaolo Baretta, sottosegretario. Grazie all'economia, per essere stato con noi. Buona giornata, cara Maria. Buona giornata, sottosegretario. Da domani Simone. Ciao Maria, a domani alle 8:20. Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Enina e Francesco Ciaraffo sono i nostri due autori. Noi ci risentiamo domani alle 6:30. Ciao.